Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Prima volta che ti chiamano asino gli dai un pugno sul naso, la seconda volta che ti chiamano asino gli dici stronzo, ma la terza volta che ti chiamano asino, beh, forse è ora che ti vai a comprare una soma. Quindi lei si è appiattito non nella funzione di presidente, lei fa il servo sciocco della maggioranza e non tutela la minoranza, e questo davanti a una legge così importante, così delicata, che ha argomenti come quelli angoscianti dell'utero in affitto, della mercificazione del corpo umano, della compravendita fatta anche da senatori all'estero. Fin dall'inizio noi abbiamo chiamato una mela una pera, e siccome il voto segreto è messa per la mela e non per la pera, il voto non lo possiamo fare segreto. Ma noi siamo in presenza di una mela. Ma non mi aspettavo da parte sua un atteggiamento che mi ricorda il passaggio del Manzoni, da dove c'è l'incontro fra i bravi di Don Rodrigo e Don Abbondio, dove gli viene detto: questo matrimonio non sa da fare né domani né mai. Che il Parlamento non possa esprimersi col voto segreto è una vergogna che non ricade su di noi, ma ricade sicuramente su di lei. Senatore Giovanardi, le sue offese sono una medaglia, grazie. Ce l'avevano con il presidente Grasso, che ha detto: non si vota col voto segreto. Nella prima importante votazione, quella che se passava rispediva praticamente tutta la legge in commissione, la legge Cirinnà. Ebbene sì, la Stepchild Adoption, diciamolo tutti insieme bene, Stepchild Adoption, anche perché ieri se ne sono sentite di altre, anche lo stesso Calderoli, senti qua Calderoli. La cosiddetta Stepchild Adoption. La Stepchild Adoption non raggiunge le vette mitiche di altri senatori che si sono pronunciati in merito, non so se ce li abbiamo, ma insomma altri che sono stati mitologici, ce li abbiamo? No, li recuperiamo adesso. Va bene, sono le 6:34 minuti, buongiorno cari ascoltatori, questo è 24 mattino, ben svegliati. Se volete al 349-238-6666 potete scriverci. C'è oggi Filippo Aureggi sbrandato clamorosamente in regia insieme al nostro Lorenzo Nespoli in redazione. Eccola qua, la compilation. No alla Stepchild Adoption, che rischia adoption, scusate. Vabbè, l'adpiscion è il massimo. Allora, voglio subito convocare il nostro Marione Adinolfi. Buongiorno. Dilla bene tu. Stepchild adoption, che peraltro è un'espressione che non è contenuta nella legge. La legge è letta con attenzione. Ah, qua, quindi pure l'abbiamo pure messa per farci del male. Non c'è scritto in testa. Va bene. Allora, caro Marione, oggi apriamo il Parlamento, perché c'è un ingresso al Parlamento. Io sono è contento, emozionato, lo voglio salutare con grande affetto, un grandissimo scrittore italiano, oltre che alpinista, oltre che scultore, oltre che insomma uomo dei monti, non so, uomo dei monti va bene, Mauro Corona, buongiorno Mauro. Buona mattina a voi. Va bene uomo dei monti? È una cosa... Va bene tutto, va bene, questi cliché dei monti, non sono mica una banana io. No, vabbè, uomo di montagna nel senso più profondo. L'uomo è l'uomo che vive in pianura, in montagna, sì. L'anima è, insomma, vivo in quota, va bene, ci sono meno imbecilli in quota, per quello sto lassù. Ah, eccoci, perché ci sono meno imbecilli? Perché in alto non arrivano. Ah, fanno fatica, devono faticare, sì. Devono cambiare. Mi viene da morire. Guardi, Brodsky diceva, un premio Nobel della letteratura, se noi scegliessimo i nostri governanti in base alle loro biblioteche, alle loro letture e non in base ai loro programmi di politica, forse il mondo piangerebbe meno, no? Sì. Io quando vedo gente che deve guidare la patria, che ci guida, che dice mostruoso, cadiamo nel ridicolo. L'adpiscion. Vabbè, e qua Mauro Corona, c'è Mariona Dinolfi, sa chi è, no? Sì, lo vedo spesso, grande Maria Dinolfi. Anche tra gli organizzatori del Family Day, e quindi... Perché no? Marione, come va? Ma sai che dicono che farete un partito poi? Chi l'ha detto? No, così, la vulgata, cioè tutta quella forza... Se mi dici chi l'ha detto, rispondo. Ma no, non è che c'è chi l'ha detto, sono quelle cose che si... No, perché... Stanno nell'aria, te lo dico, prometto. Visto che se non votate più Renzi, se passa la legge, dice perché sprecare tutte queste risorse, no? Vedremo, sarai il primo a saperlo, tanto vai in onda di mattina, è come la montagna, in alto. Per gli addetti alla politica è già una mezza missione, Corona, quella che ha fatto ad Inolfi, già, non ha smentito seccamente, quindi... Ma insomma, vediamo alla fine, no? Perché non dovrebbe farlo, sì. Non ha nessuna voglia. Vabbè, ma uno scranno in Parlamento, dai. Già fatto. Va bene. Non ripeto mai. Ha detto anche Napolitano, lo ha detto, che i parlamentari lavorano poco. Pensate un po', Napolitano si è accorto. Confermo. L'ex presidente della Repubblica. Sono stato meno di Napolitano, ma confermo. Lavorano poco. Quanto lavora Corona, giusto per sapere? Ma io mi alzo, a quest'ora qui sono già sveglio da tempo, scrivo, leggo molto, vado a camminare, faccio sculture, cioè lavoro, ho fatto anche il boscaiolo, il minatore, prima di fare, diciamo, mi è accaduto, disse Borges, di avventurarmi a scrivere, ma io ho fatto i lavori di fatica, ho fatto il minatore, il boscaiolo, ho fatto il manovale di terza categoria perché ci pagavano meno. Sì. Quindi quello che faccio ora non è un lavoro, è veramente ringrazio Dio di avermi aperto sta porta di prendere qualche lira, non fare nulla, sinceramente. No, non faccio come non nulla. Fare nulla, ma come? Ha appena detto che gli intellettuali e gli scrittori sono quelli. Io sono abituato il lavoro per me è faticare, che arrivavi alla sera a casa, facevamo in cava di marmo 15 ore al giorno. Quindi mettermi lì con una matita, un quaderno a inventare sto, per me non è un lavoro. Qual è il lavoro più faticoso? Così, proprio avendo Nella cava di marmo del Monte Buscada, quando si spaccavano le pietre a mano, parlo degli anni, avevo 18 anni, 19, 20, ho fatto 5 stagioni lì. Lì era veramente la fatica, perché non c'erano i mezzi di oggi per lo scarto, dovevamo frantumarlo a mano, i lavori forzati, la Cayenne. Quindi 15 ore, e se non caricavi 60 vagoni eri licenziato, altro che sindacati e casini vari. Hai capito, caro Marione. Allora, voglio chiedervelo brutalmente. Allora, Mario, te lo chiedo brutalmente. Grasso che cos'è? Ha fatto una roba sbagliata? Ha preso una decisione di non votare in voto segreto? È stato un arbitro? È stato un non imparziale? Dai, sfogati, di la tua. C'è poco da sfogarsi, insomma, qui ci sono i regolamenti parlamentari. Si sanno, chi ha letto il regolamento parlamentare, ovviamente lo sa, chi non lo sa perché non l'ha letto, ma c'è scritto, e se ti occupi di alcune tematiche particolari, tra cui il matrimonio, il voto segreto è tassativo, cioè non è una cosa che c'è quindi scritta... ha violato il regolamento, ha violato, non solo violato il regolamento, guarda, il passaggio non è ha violato o meno il regolamento, perché è ovviamente violato, ma è perché, se tu sei sicuro, no, cioè io fossi sicuro di avere maggioranza, hai visto la votazione, sai com'è andata, è finita 195 a 101, esatto. Se tu ti senti tranquillo, perché quei numeri ti dovrebbero dare tranquillità, perché devi fare una forzatura del genere? Io penso che proprio dal punto di vista dell'analisi forse politica... Forse lui non l'ha vissuta come una forzatura, avrà preso una decisione in punta di... Chiunque abbia ascoltato le parole di Grasso sa che si è arrampicato sui specchi, ha detto una cosa che non sta nel cielo. Vabbè, ha detto una cosa che non sta nel cielo. Ti ribalto la questione, tanto anche col voto segreto passava. Vabbè, benissimo, allora dallo, perché non lo dai? Io penso, se fai tutta questa polemica, perché noi ieri ho capito, ma se anche tu certo. Perché non dobbiamo, perché non lo concedi? Ma se anche tu, stai ammettendo che vista la maggioranza sarebbe passato, a questo punto a posteriori è una questione di lana caprina. Sto dicendo un'altra cosa, sto dicendo è finita 195 a 101. Se tu non dai il voto segreto, evidentemente temi che col voto segreto finisca in maniera diversa. Ma questa cosa, secondo me, è una arrampicata sugli specchi, una spia su quello che sta in realtà accadendo al Senato. Ma in realtà, vabbè, questa legge poi passerà. Però io vorrei sapere da Mauro Corona, le dà fastidio parlare di adozioni per gli omosessuali, stepchild adoption? No, non mi dà fastidio che possano adottare dei bambini tra due maschi. Quello che mi impressiona di più è che ci ho riflettuto anche stanotte, è di avere una donna che gestisce per 9 mesi, cioè una gestazione per 9 mesi, e un bambino è poi sotto, quella è una mamma. Mi provoca un dolore che questo bambino poi le venga sottratto. E qui va a frantumarsi anche il mio, diciamo, pensavo di essere più di sinistra come. Sono stato tutta la vita. Barcolla sulla maternità surrogata, diciamo. Sì, perché questa mamma non può essere così, non sarà mai così cinica e così spietata da dire, boh, prendetevelo, me ne frego. Per soldi lì, però magari. I soldi, c'è un contratto. Certo, però alla fine quando c'è lo stacco, te lo sei portato 9 mesi, qui sarei più cauto, però per il resto possono adottare bambini per me. Guardi, le dico una cosa privata. Sì. Io ho avuto dei genitori criminali. Se io fossi stato adottato da qualche coppia gay, forse avrei avuto una vita meno infernale. E perché non è detto che cresciuto da due gay, uno diventi gay a sua volta, oppure può avere, dove c'è l'amore, c'è amore. Quindi la vedo così, sulla donna, sull'utero in affitto, bruttissima. No, ma io su quello l'ho sempre detto, sono orgoglioso di vivere in un paese che la pratica dell'utero in affitto la considera illegale. E questa legge non ne parla e non la introduce. Questo, Mario, è un punto sempre molto. Alessandro, che dibatte? C'è chi dice che surrettiziamente viene inserito. Questa cosa la dovete chiudere. Senatore Sergio Lo Giudice. Ma l'abbiamo invitato anche, di utero in affitto esattamente con la modalità definita da Corona, non la può legittimare in Italia oggi. Dopo il DDL Cirinna lo ma potrà allora, legittimare. Va bene, e questo non è un punto importante. Di cose che non esistono. No, però questa Mario, scusa, il punto. Perché non potete continuare a dire che questa cosa non introduce. Ma allora, aspetta. Legittima. Il punto è questo, ma anche senza la Cirinna, il senatore Lo Giudice ha potuto farlo negli la Stati Cirinna, Uniti? Quel bambino non può essere dichiarato figlio di due ma papà. Tu sei contro. Dichiarato figlio di due papà. Ho capito, ma il punto fondamentale è essere in Italia. Ascoltami, la Mario. Famosa coppia ogni volta intervistate quei tre figli può andare a dire. Ma quello che ti voglio dire è questo: ma tu sei contro l'utero in affitto o il fatto di poterlo legittimare? legittimare in Italia. Sarà più importante contro l'utero in affitto, Alessandro, no? Sono contro l'utero in affitto, ma con tutta evidenza, se tu crei la legittimazione di quella pratica, la incentivi, come è evidente. Se tu non lo puoi fare, ma non uno, lo fai. Ma uno lo fa se lo, anche adesso, se vuole. Lo fa anche adesso. Ma semplicemente... lo fa contra legem. Ma non è vero. Si alzano in Senato. I senatori ipocriti che dicono adesso dobbiamo fare la mozione per renderlo impossibile a livello planetario, dice Anna Finocchiaro. Ma come si fa? D'accordo? Ma come si fa? Questo dicono in Parlamento gli ipocriti. Vabbè, però su, gli ipocriti. Perché gli ipocriti. Altri, adesso vogliono la mozione planetaria. Comunque. Anna Finocchiaro. E voi continuate a dirmi che la questione non è l'utero in affitto. Ma perché tutta Italia discute di questo? Perché si sono alzati in Senato a dire questa cosa? Vabbè, Mauro Corona, perché? Qui Marione ne ha fatto una battaglia di vita. No, ne fa una battaglia di vita. Devo dare le informazioni sul traffico, ma torno subito perché il tema è molto caldo, poi parliamo anche di qualcos'altro se volete. C'è Mauro Corona con noi, c'è Maria Dinolfi, tra un attimo. Quando mando il traffico godo come un maiale. Milan, ciao Milan. Sulla Fittopoli romana, Tronca adesso vuole sapere chi ha concesso queste locazioni, perché chi è responsabile adesso deve pagare. A Tronca, comincia a preparare le valigie. Mamma mia, sto Sanremo, sto festival, chi vincerà? Vincerà la noia. Meno male che sta Enrico Ruggero là, che dà una poca d'allegria. A Milan, fossi il tuo direttore, quante botte ti darei. Anziché guardare Sanremo hai visto un film, ma tu devi essere documentato su tutto. Allora, come detto, siamo con Maria Dinolfi, direttore della Croce, e siamo con Mauro Corona, il cui ultimo libro, voglio ricordare, I misteri della montagna. Vede che è un uomo di montagna, Corona? I misteri della montagna, infatti. No, l'ultimo è una fiaba sul Natale, ah, ecco. Quello del razzismo. Quello è il penultimo, allora, che ho citato. Sì, vabbè. Corona, ma lo vede Sanremo? No, guardi. Ma non è per fare il duro, mi annoia, non... Ogni tanto giro e vedo qualche canzone, ma non... Anch'io faccio così, cioè poi c'è pubblicità, sì, poi una canzone, poi entra Eros Ramazzotti che canta le canzoni. Mamma mia, è stato bravo, però poi dopo... Sì, ma sono bravi, ma bisogna anche sostituirli un po'. Abbiamo ancora Pippo Baudo che vuol fare TV, siamo l'età del bronzo. L'età del bronzo, va bene. Comunque si distingue in tutto questo dibattito, si distingue il signor Giovanni De Paoli, che ha avuto questo il classico quarto d'ora di celebrità warholiana. Perché cosa ha detto questo consigliere leghista? Cosa avrebbe detto? Avrebbe detto: io, se avessi un figlio gay, lo brucerei nel forno. Poi è stato inseguito dai giornalisti e ha detto: sentite che toppa ha messo. Ha detto: no, io ho detto il contrario. Ho detto: se avessi un figlio gay, non lo brucerei nel forno. Ma già pensare una cosa, perché uno dovrebbe pensare di specificare non lo brucerei nel forno? Non lo so, Corona. Sono cose, come ho detto prima, di accettare qualcuno in lista che fare politica, bisognerebbe fargli un patentino, rilasciare un patentino. Ci sono dei personaggi di una rozzezza, di una trivialità, di ignoranza totale, lo stato brado, quindi fare un esame, e lo dirò anche per i genitori, perché a volte ci si guardate che fare i genitori bisognerebbe essere abilitati. Io sento spesso genitori che dicono, il papà che dice alla mamma: tu stai zitta, se no ti do un ceffone, non devi parlare. Il bambino crescerà convinto che ha la donna, se non tace bisogna darle un ceffone. Oppure sento dire il papà durante una partita in TV a Balotelli: sporco negro, li ho sentiti, e allora il bambino crescerà convinto che i negri sono sporchi e che sono da bruciare o da comunque la politica avrebbe bisogno di uomini con una certa scrematura, non si può tollerare, lo brucio nel forno, sono cose di una roba. Una frase così, quello deve essere mandato a pulire escrementi. Ma anche poi la giustificazione, no, ho detto non lo brucerei nel forno. La nostra patria è proprio la terra di anche persone per bene, ovviamente, di questi che dicono una cosa e allo stesso tempo dicono ma no, non l'ho detta io, non l'ho detto così. È mostruoso. Quelli lì vanno messi a fare altro. Abbastanza mostruosa, sì, questa frase certamente. Marione, hai sentito quando Mauro Corona ci fa anche appunto questa sua confessione privata a dire i miei genitori sono stati terribili, anzi ha usato la parola criminale, se fossi stato cresciuto nell'amore da persone anche dello stesso sesso, forse sarebbe stato meglio, eh? La famiglia è un luogo faticoso sempre, cioè io non dipingo mai la famiglia come luogo del pulito bianco. La famiglia è un luogo faticoso, ma è un luogo di verità. Io penso che tutti noi, Mauro Corona compreso, ritenga la propria radice un elemento ineliminabile, tant'è che la sottolinea, l'ho sentito affermare queste frasi che ho ascoltato oggi più volte, quindi sa che la propria radice è una delle condizioni di ciò che lui è, queste cose non si eliminano. Per dire che l'amore supera la questione strettamente di genere, uomo, donna, a volte. Può superare ovviamente l'amore e cose di genere, non supera il fatto che un bambino nasca da un uomo e da una donna, questa cosa non la supera, questa è insuperabile, perché è un dato di natura. L'abbiamo detto tante volte. Però io vorrei chiedere una cosa, Mauro Corona, sulla questione, c'è il grande dibattito sulla cosiddetta legittima difesa, ha sentito che sono vari casi, no? Intrusione, spara, condannati a volte no, eccetera. Seguo molto, guardi, io il porto d'armi perché mia madre mi lasciò dei libri quando morì e mio padre mi ha lasciato delle armi perché era un cacciatore. Sì. E quindi per non buttare come memoria, non si dovrebbe conservare la memoria delle armi. Istintivamente nel mio ragionamento, perché io vi posso dire suggestioni, non è che proponga delle cose, chiaro. Io dico delle mie impressioni da povero diavolo, che sono non contro assolutamente, sono attento a essere armati e a sparare, però le dico sincerissimamente, io ho quattro figli di cui tre sono femmine, sono donne. Perché tu puoi venire a rubare a casa mia, però non massacrarmi. E se viene qualcuno dentro la mia casa e mi massacra la figlia, una figlia o la stupra, io prendo l'automatico e li sparo, perché è il mio istinto di padre che mi porta alla difesa. Quindi non posso dire una cosa, non posso schierarmi di qua, quando so che nel mio intimo, se sono messo in quelle condizioni, sparo. Ovviamente dovrei arrivare proprio all'estremo, non a quello che salta. Non è mai bello togliere una vita, dice di fronte a questo uno. Ma che scherziamo, ma vieni a casa mia, perché non è tanto quello che rubano, è l'effrazione dell'anima, sei nel mio intimo, sei nella mia casa. E quindi devono stare attenti quelli che decidono di rubare. Poi sono anche degli sciocchi, perché nessuno tiene in casa più di 1.000 euro. Cosa tengono in casa? Tengono il necessario per fare la spesa. Io sono qui molto molto perché dentro di me dico no, perché uno salta un cortile e quell'altro li spara, se accade io devo dire così, e qui mi attirerò le ire di base, a casa mia, perché puoi venire a dire guardi siamo ladri, buonanotte ladri, dateci quello che avete. Invece pestano la gente per il puro gusto, quelli sono dei sadici. Si sentiva anche di bande che strappavano i denti, vi giuro, ieri sui giornali, strappavano i denti per estorcere. C'è questa gente denaro. Che non solo va lì per arraffare del denaro dei gioielli, ha il gusto di picchiare, allora ti sparo in quel momento lì. Perfetto, grazie a Mauro Corona. Maria Di Nolfi, ti devo salutare, ma devi dirmi il pronostico. Lo chiedo a tutti, il pronostico, non dirmi di che cosa, eh? Juve-Napoli, dai, forza, secco. 1-2-0. 1-2-0 per chi?